Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulla legge elettorale si riapre lo scontro all'interno del Partito Democratico, i bersaniani contro la mozione del governo, oggi la discussione in aula. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia, nuova rivolta a Charlotte in North Carolina, ci sono 12 agenti feriti. Sarebbero in mano a delinquenti noti i due italiani rapiti in Libia, intanto dal paese parte per l'Italia la prima petroliera dal 2014. Petizione con oltre 5.000 firme contro i vaccini. In Emilia-Romagna centinaia di famiglie contro la legge che prevede di escludere i non vaccinati dagli asili nido. Il sindaco di Palermo Orlando vuole il carcere per i parcheggiatori abusivi. La proposta di legge portata in queste ore alla riunione dei comuni. Chiesto lo scioglimento per 'Ndrangheta di Nicotera, il comune calabrese del matrimonio in elicottero del nipote del boss. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono, come sempre, Simone Spezia, in apertura ci occupiamo di politica e del dibattito che si riapre in maniera anche piuttosto dura tra le forze politiche sulla legge elettorale. Nessuna indicazione specifica su come e quali punti la legge elettorale potrà essere cambiata, ma, come annunciato da Matteo Renzi a New York, la mozione della maggioranza sull'Italicum è pronta per essere votata. La Camera, si legge nel testo, si impegna ad avviare una discussione per consentire ai gruppi parlamentari di esplicitare eventuali proposte di modifica e valutare possibili convergenze. Nel partito era stato chiesto di modificare l'Italicum, ora vediamo le carte delle opposizioni, dice Rosato del PD. Le critiche ovviamente non mancano, a partire dalla minoranza Dem. A tutto c'è un limite, voglio ricordare che le volpi finiscono in pellicceria, sottolinea Bersani, d'accordo da Torre di Sinistra Italiana. Non c'è la volontà di cambiare il punto centrale dell'Italicum, che è il ballottaggio e l'abnorme premio di maggioranza attraverso il quale si realizza un cambiamento della forma di governo e si introduce un presidenzialismo mascherato e pericoloso. Una mozione ridicola e farsesca, ci avevano detto che era la legge più bella del mondo, commenta Brunetta di Forza Italia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero, l'attacco questa mattina all'ambasciata italiana israeliana ad Ankara in Turchia, un assalitore da quanto si è appreso ha preso di mira la sede diplomatica ingaggiando uno scontro a fuoco con la polizia nel corso della quale è rimasto ferito. Da quel che si è appreso negli ultimi minuti si tratterebbe di uno squilibrato. Ci spostiamo ora in Libia. Ancora nessuna notizia dei due italiani rapiti in Libia assieme a un collega canadese. Secondo autorità locali, fra le quali il sindaco della cittadina libica di Ghata, Komani Mohamed Saleh, i tre sequestrati sarebbero in mano a criminali locali noti nella zona, non quindi a terroristi di matrice jihadista. Quello che si sa per ora è che viaggiavano su un'auto con autista senza scorta lungo la strada che attraversa il deserto tra Ghat e Ubari. Le autorità locali sono per il momento l'interlocutore principale della Farnesina, visto che in Libia la situazione rimane ancora confusa dal punto di vista politico nazionale. Un segnale positivo è arrivato stamattina con la notizia che una petroliera con un carico di migliaia di barili di greggio diretta in Italia è salpata dal porto libico di Ras Lanuf nella Mezzoluna petrolifera, uno dei quattro porti che nei giorni scorsi è stato teatro di accesi scontri tra le forze del generale Haftar di Tobruk e le guardie delle installazioni fedeli al governo di Tripoli, riconosciuto dall'ONU. Si tratta del primo carico di petrolio che lascia Ras Lanuf dal novembre 2014. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti scontri nella notte dopo la nuova uccisione di un afroamericano da parte della polizia. Nuove proteste e violenti scontri negli Stati Uniti, questa volta a Charlotte in North Carolina, dopo l'uccisione di un uomo di colore a colpi di pistola da parte di un agente di polizia. La vittima, Kate Lamont Scott, di 43 anni, era un afroamericano come il poliziotto che lo ha ucciso, Brantley Winston. L'agente, insieme ad alcuni colleghi, stava cercando una persona colpita da un mandato d'arresto all'interno di un complesso residenziale quando ha visto Scott, che non era ricercato, a bordo di un'auto parcheggiata fuori dallo stesso complesso. L'uomo era armato, cosa legale, no? North Carolina, Carolina, ne è seguita una lite e il poliziotto, sentendosi minacciato da Scott, ha aperto il fuoco uccidendolo. Secondo i familiari della vittima, quest'ultimo aveva invece in mano un libro e non un'arma quando è stato colpito. Poco dopo il fatto, alcuni dimostranti si sono riuniti, bloccando anche la Interstate 85 e scandendo lo slogan «No justice, no peace», «Nessuna giustizia, nessuna pace». Negli scontri che ne sono seguiti, i manifestanti hanno distrutto alcune auto della polizia e 12 agenti sono rimasti feriti. Ora Jennifer Roberts, la sindaca di Charlotte, che conta più di 800.000 abitanti, di cui il 35% neri, esorta sui social media i suoi concittadini alla calma e afferma che la comunità merita delle risposte. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere la pagina degli esteri, un'organizzazione di soccorso medico ha reso noto che quattro membri del suo staff sono stati uccisi in un attacco a una sua struttura in Siria. L'International Union of Medical Care and Relief ha spiegato che un raid ieri sera ha colpito un suo centro appena fuori dalla città di Aleppo. Secondo un'altra fonte, l'Osservatorio per i diritti umani, in Siria le vittime sarebbero 13. In Italia il PIL, siamo all'economia, crescerà dello 0,8% nel 2016 e nel 2017, lo dice l'OCSE nel suo Economic Outlook di settembre, ritoccando rispettivamente al ribasso di 0,2 e di 0,6 punti le stime rispetto alle previsioni di giugno. La debole progressione degli scambi e le distorsioni del sistema finanziario, dice l'OCSE riferendosi un po' a tutto il pianeta, offuscano le prospettive di crescita globale. Restiamo sulle economia, perché è stata presentata oggi l'indagine di Federmeccanica, ma si è parlato molto anche di Industria 4.0. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, la quarta rivoluzione industriale è partita, ma nel nostro paese siamo ancora in una fase iniziale, l'Italia arranca, permane il divario con altri paesi, 2/3 delle imprese dichiara di aver adottato almeno una delle tecnologie individuate come qualificanti, mentre 1/3 dichiara di non averne adottata alcuna. Questo è il quadro secondo Federmeccanica, che presenta la sua indagine appunto sul grado di conoscenza e livello di adozione delle tecnologie da parte delle imprese, tutto questo nel giorno in cui, come sappiamo, il governo illustra il piano Industria 4.0 e proprio nelle stesse ore in cui al Ministero dello Sviluppo Economico parte la prima cabina di regia sull'innovazione digitale. L'Industria 4.0 è una grande occasione, condividiamo il percorso dell'agenda di governo, ha detto il presidente di Confindustria Boccia, presente qui al convegno. Sentiamo. Dobbiamo accompagnare quelle un po' più indietro a fare questo grande salto di qualità, che è culturale prima ancora che tecnologico, e cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Siamo un grande paese industriale, possiamo farcela con le nostre potenzialità. Una sfida per l'intero paese, ha detto il presidente di Federmeccanica Storchi, il quale ha parlato anche a margine della ripresa della trattativa con i sindacati per il contratto nazionale dei metalmeccanici. Sentiamo. Io sono sempre positivo, è il mestiere che faccio che mi porta a essere positivo, assolutamente sì. Noi com'è che lo chiamiamo la mossa del cavallo, dice Franchi, per andare nella direzione di chiudere, dai, assolutamente. E di contratti ha parlato anche a margine Boccia, spero che ci siano tempi brevi. E da Roma è tutto. E ti ringrazio, grazie ad Alessandra Schepisi. E da Roma ci spostiamo a Milano, però in realtà per rimanere sugli stessi argomenti, perché oggi il Presidente del Consiglio Renzi sarà a Milano appunto proprio per parlare di Industria 4.0, presentare il piano del governo. Raffaella Calandra, buongiorno, eccoci. Sì Simone, buongiorno, appunto il piano dell'industria è protagonista anche di questa nuova ed intensa giornata milanese della Premier. Matteo Renzi poco fa è arrivato al MUDEC, il Museo delle Culture, dove sta visitando una mostra curata dalla Camera della Moda in occasione dell'inizio della settimana delle sfilate, dove già l'anno scorso il Premier aveva promesso che sarebbe tornato e infatti pranzerà tra poco con stilisti e operatori di quello che ha già definito un settore fondamentale del Made in Italy, per poi trasferirsi alle 14:30 al Museo della Scienza e della Tecnologia, ed è qui che invece sarà illustrato il piano d'industria 4.0, che certamente andrà nella prossima legge di bilancio, anticipa il ministro dello sviluppo economico Calenda, rimandando a tra poco ogni dettaglio. E per ora è tutto. Grazie dunque anche a Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Oggi la decisione della Giunta Romana sulle Olimpiadi del 2024, mentre i problemi interni al governo della città non sono ancora risolti. È il giorno della verità sulle Olimpiadi a Roma. Nel primo pomeriggio, infatti, salvo sorprese, la sindaca Virginia Raggi ufficializzerà la sua posizione sulla candidatura della capitale ai giochi del 2024 e con ogni probabilità sarà un no, come lasciato intendere dalla stessa prima cittadina in campagna elettorale e come chiesto nei giorni scorsi anche da Beppe Grillo e dai vertici del Movimento 5 Stelle. L'annuncio è atteso nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Campidoglio dopo un incontro fra la sindaca e il presidente del CONI Giovanni Malagò, che spera ancora in un suo ripensamento, un faccia a faccia preceduto ieri da un tavolo tecnico andato avanti fino a tarda serata, al quale hanno partecipato una delegazione del comune e i vertici del comitato promotore. Se confermato, il ritiro della candidatura olimpica della capitale dovrà essere formalizzato con un passaggio in consiglio comunale, con il voto su una mozione che, secondo fonti di Palazzo Senatorio, potrebbe essere discussa già la prossima settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma. E a proposito di Roma, un autobus di linea ha preso fuoco ieri sera in via Virginia Talli, in zona Serpentara, alla periferia della città. Sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti, si tratta di un bus ATAC della linea 80, è il 4º autobus che prende fuoco negli ultimi 4 mesi, come ricorderete tra l'altro ad effetto giorno di questa vicenda ci eravamo occupati, in gran parte dipende anche dalla condizione di anzianità di questi mezzi. Arriva il tradizionale rapporto di cittadinanza attiva sull'edilizia scolastica, un rapporto particolarmente importante quest'anno anche perché tanto si è discusso della scuola di Amatrice e di come è crollata. 7 scuole su 10 in Italia hanno lesioni strutturali e 1/3 resta senza interventi. Complessivamente solo l'8% degli edifici scolastici è progettato secondo la normativa antisismica. Questa è la fotografia che emerge dal 14° rapporto su accessibilità e sicurezza nelle scuole, presentato oggi a Roma da Cittadinanza Attiva. Nella gran parte dei casi poi non c'è il certificato di agibilità statica, vale a dire nessuna verifica che attesti se una scuola può resistere o meno a un terremoto. A introdurre il ministro per la semplificazione Madia, che in apertura ha ricordato le piccole vittime del terremoto, per fare poi riferimento alla necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. A coordinare gli interventi specifici del governo in edilizia scolastica, Laura Galimberti. Nella zona sismica 1 sicuramente bisognerebbe fare uno sforzo per concentrarsi sugli edifici scolastici e riuscire a arrivare, se non proprio un adeguamento, perlomeno un miglioramento sismico, quindi rispetto ai terremoti di minore entità avere una sicurezza. Sappiamo che per i terremoti di maggiore entità purtroppo conta moltissimo non soltanto il tipo di struttura che viene edificato, ma anche la zona in cui viene edificato. Chiara Piselli, Radio 24, Sole 24 ore, Roma. Siamo al caso della diffusione delle immagini personali di Diletta Leotta, giornalista di Sky Sport. Scatti privati sottratti dagli hacker e diffusi in rete. La vittima digitale è Diletta Leotta, giornalista di Sky Sport. Ieri, 8 sue foto in intimo, senza vestiti, sono state rapidamente condivise sul web e l'hashtag Leotta ha scalato la gradatoria su Twitter, anche se con il contributo di chi cercava di opporsi al passaparola digitale. Ma la violazione dell'account iCloud di Leotta sembra essere iniziata da circa 1 anno, quando la giornalista ha ricevuto le prime notifiche rispetto a cambi di password non autorizzati. La notizia ha 1 settimana dalla morte di Tiziana Cantone, la ragazza che si è suicidata per l'impossibilità di sostenere le conseguenze di un proprio video diffuso sul web. La giornalista di Sky ha immediatamente sporto denuncia, dichiarandosi indignata ma anche pronta a gestire la vicenda e vuole condividere la sua esperienza sperando di essere un esempio per altre ragazze, magari più fragili, nella sua stessa situazione. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 ore. Rischia nuovamente lo scioglimento per 'Ndrangheta e sarebbe la 3ª volta il comune di Nicotera, quello, lo ricorderete, ne abbiamo parlato giusto nella giornata di ieri, nel quale c'è stato questo matrimonio estremamente fastoso di un nipote del boss mancuso atterrato in piazza con un elicottero e con il paese chiuso per 3 ore. A quanto pare, come vi abbiamo raccontato anche ieri, il sindaco era presente a questo matrimonio. Tra l'altro scoppiano polemiche per le sue parole, nelle parole di Francesco Pagano, ai microfoni di Rai 3 in qualche modo strappate. Sentiamole. Secondo lei no, cioè voglio dire, con tutto quello, per come si dice, ma i Mancuso si sarebbero occupati di queste cose, hanno altre cose più importanti da fare. Andiamo a chiudere con il calcio, innanzitutto con una notizia di finanza, perché chiude per il secondo anno consecutivo inutile ed è di pochi istanti fa il bilancio della Juventus di 4,1 milioni di euro. È stato approvato oggi e si conferma il miglioramento evidenziato negli ultimi anni, e il fatturato è di 387,9 milioni di euro. Le previsioni sono positive anche per l'esercizio 2016 e 2017. Per quanto riguarda quello giocato, il Milan nell'anticipo della quinta giornata di Serie A ha battuto la Lazio a San Siro, in rete Bacca nel primo tempo e Niang su rigore nella ripresa. Il capitano rossonero Riccardo Montolivo nel dopogara a Sky Sport. Abbiamo bisogno di vittorie, soprattutto per l'autostima, per il morale. Credo che questa vittoria sicuramente ci aiuti molto contro una diretta concorrente, quindi la partita di venerdì era una partita complicata, siamo stati bravi, quindi dobbiamo andare avanti così. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa. Oggi il resto del programma, con la capolista Napoli che affronta in trasferta il Genoa, l'Inter che va a Empoli, la Juventus che ospita il Cagliari, e di tutto questo naturalmente parleremo a partire dalle 14 in tutti convocati. In ultimo una notizia di sport triste, perché è morto a Merano all'età di 64 anni Robert Brunner. Chi era? Era un manager di Vipiteno che aveva lavorato con star dello sci come Alberto Tomba e Benjamin Reich. E Brunner ha avuto un ruolo di grande rilievo nello sci internazionale per diversi decenni, si è spento dunque a 64 anni. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e nella seconda parte della trasmissione iniziamo come sempre il nostro giro per l'Italia. Avremo due presidenti di regione ospiti, innanzitutto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, perché è arrivata una petizione firmata ormai da 5.500 persone nella quale si chiede di non approvare la legge che prevede l'obbligo di vaccino per i bambini dell'asilo nido. E poi risentiremo l'intervista ieri saltata per motivi tecnici, come avete sentito, con il presidente la regione Liguria, Giovanni Toti, con quale abbiamo parlato anche di immigrazione, di costruzione di moschee, traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della legge elettorale, dello scontro che si riapre all'interno del Partito Democratico, abbiamo parlato dei nuovi scontri negli Stati Uniti per un afroamericano ucciso dalla polizia, dei due italiani rapiti in Libia. Ci siamo occupati anche delle Olimpiadi a Roma nel 2024, oggi dovrebbe arrivare la decisione della Giunta. Vi do un aggiornamento su questo tema, perché Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Luca Pancalli, vicepresidente Roma 2024, hanno chiesto attraverso le agenzie di stampa alla sindaca Virginia Raggi di mandare in streaming l'incontro che avranno questo pomeriggio. Vedremo che cosa risponderà Virginia Raggi. Tra un attimo, come vi dicevo, parleremo di vaccini, ma ieri abbiamo provato a farvi sentire un'intervista che per motivi tecnici non è riuscita ad andare in onda. L'abbiamo registrata al Salone Nautico di Genova, dal quale eravamo in diretta col presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Scusate, ogni tanto si impasta la lingua. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, abbiamo parlato con lui del Salone Nautico certamente, ma anche dei temi più caldi, a partire dall'immigrazione e da una nuova legge che la Liguria vorrebbe varare per limitare il numero di moschee. Sentiamo. È un salone molto bello, è un salone che rappresenta un giro di boa per il settore. I numeri che le associazioni di categoria ci hanno dato sono numeri positivi per la prima volta, e non è un dato scontato, perché l'economia italiana, come sappiamo, ancora non va molto bene. Però detto questo, è un settore che sta riprendendosi dopo lunghi anni di crisi, e io credo che sia quindi un salone nautico in cui si respira un'aria d'ottimismo, come è giusto che sia dove si fa impresa. Si è molto ragionato sulla centralità di Genova e del Salone. Genova e il Salone io li considero un'identità, e su questo abbiamo lavorato molto come regione, abbiamo lavorato molto con Ucina, che è l'associazione che organizza questo salone. Abbiamo ovviamente investito anche perché questo accadesse, sia in termini di impegno sia in termini di denaro pubblico, e io credo che la città debba tenere questo gioiello con grande cura. La porterei anche un attimo sui temi politici, visto che l'abbiamo in studio con noi. Ci sono indiscrezioni che parlano di un nuovo piano del governo che prevederebbe di fatto una maggiore distribuzione nei piccoli comuni e anche una sorta di risarcimento economico ai comuni per ogni profugo. È chiaro, e noi lo abbiamo raccontato e lo raccontiamo tutti i giorni, che il sistema di accoglienza fino a questo momento non ha funzionato e non ha funzionato come doveva. Le sembra una buona ipotesi una distribuzione più ampia sul territorio? No, guardi, mi sembra che stiamo sempre sul solco del medesimo errore. Come presidenti di regione ci siamo incontrati io, Maroni e Zaia per fare alcune proposte, esattamente 9 proposte al governo che andranno in discussione alla conferenza delle regioni la prossima settimana e che ci auguriamo Renzi voglia prendere in considerazione. Sono proposte non provocatorie, non volutamente di provocazione politica, ma di assoluta collaborazione. Dopodiché il tema dell'immigrazione, come abbiamo spiegato nel nostro documento, non si risolve distribuendo persone che in Italia non dovrebbero stare in giro per i comuni della nostra penisola, si risolve rimpatriando chi non ha diritto di stare in Italia e magari non facendocela arrivare. Quindi il tema non è quello di sparpagliare o di suddividere, peraltro senza nessun accordo con le regioni, in modo piuttosto arbitrario da parte del governo. Si tratta di trovare la soluzione per intervenire sulle coste della Libia dove partono, si tratta di trovare una soluzione per identificare tutti coloro che arrivano, per dividere coloro che hanno diritto a restare come profughi e rifugiati rispetto ai migranti economici che non hanno diritto di starci, di tornare ad una politica seria dei CIE, cioè i centri di identificazione ed espulsione, attivare gli accordi bilaterali di riammissione per coloro che arrivano, cosa che il nostro governo e il nostro paese ha la forza di fare, soprattutto, come dire, in virtù degli aiuti economici che diamo in giro per il mondo. Sì, ti faccio fare un'ultima domanda e che è in realtà piuttosto collegata a questo. Noi ci occupiamo spesso in questa trasmissione di storie di cronaca, per così dire, locale, che però tendono ad avere un respiro nazionale. In particolare sta arrivando adesso in Regione Liguria, lo leggiamo al secolo XIX, che la giunta è pronta al varo di una cosiddetta legge antimoschea, che un po' come ha fatto la Lombardia, poi gli è stata respinta la legge, l'hanno corretta, l'idea è di dare dei criteri urbanistici affinché nella sostanza le moschee non sorgano. Ma guardi, il tema dei luoghi di culto di religioni non cattoliche, non cristiane esiste semplicemente perché occorre dare un ordine. Ci sono troppe moschee che non sono censite, troppi luoghi in Lombardia più che in Liguria dove si radunano persone non censite senza sapere cosa vanno a fare, chi officia il culto in quelle zone, che cosa propaganda. Allora, siccome in questo momento è piuttosto evidente che il lato sensibile dell'attacco alla nostra civiltà è dato da un terrorismo che trae ispirazione da un Islam certamente malato, ma da lì trae, chiedere un po' d'ordine, un po' di disciplina e un minimo di controllo non mi sembra una cosa particolarmente irragionevole. Ma quindi il concetto è, mi faccia capire, come spesso si è detto, basta le moschee clandestine, qua direi che siamo d'accordo tutti e siamo nell'ambito del buonsenso. Qualche grande moschea con un po' più di controllo dello Stato ci potrebbe stare o no? Ma per quanto mi riguarda, se è regolare, se è in una zona in cui i comuni lo accettano, dopo una consultazione con i cittadini, finanziata con fondi che siano chiari, perché molto spesso le moschee diventano poi un luogo in cui si veicolano anche fondi, diciamo, opachi, per non dire nulla di più, è ovvio che si possa ragionare. Guardi, se volessimo essere fino in fondo, come si dice, duri nel nostro modo di essere, senza violare nessuna legge internazionale, diremmo che il criterio della reciprocità è il criterio che deve regolamentare queste cose. In Arabia Saudita non ci sono chiese, potremmo tranquillamente sostenere che nel paese del Vaticano non ci devono essere moschee. Io non sto dicendo questo, sto dicendo molto semplicemente che però non possono avere neppure o una deregulation in virtù di non si sa bene quale principio di libertà di culto, né devono essere, come si dice, vietate in assoluto. Devono trovare delle regolamentazioni che tengano conto anche però del momento e della difficoltà che stiamo vivendo e dell'attacco che stiamo subendo. Grazie Toti, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e per essere a Genova al Salone Nautico. Questa dunque è l'intervista che abbiamo realizzato ieri col presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, appunto, nel giorno dell'inaugurazione del Salone Nautico. Proseguiamo il nostro giro per l'Italia e ci spostiamo a Palermo, anche qua per un caso che riguarda tutta Italia alla fine. Vi sarà capitato anche a voi, andate a parcheggiare da qualche parte, trovate il parcheggiatore abusivo e sapete benissimo che se non gli date i 2 euro, i 3 euro o quanti ne chiede, vi trovate la macchina rigata o spaccata. attaccata. Ebbene, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, una delle città nelle quali questa difficoltà è più forte, ha deciso di mettere in campo una proposta di legge che preveda il carcere per i parcheggiatori abusivi. Orlando, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, intanto vorrei subito precisare che preveda in caso di recidiva la valutazione penale del comportamento, che è cosa diversa dal carcere comunque, può anche essere una valutazione penale, ma comunque quello di cui ha perso l'esigenza è di smetterla, di continuare a tollerare un fenomeno che è intollerabile. Il posseggiatore abusivo, parlo per esempio della mia esperienza, ma questo vale anche in altre parti del nostro paese, in passato ricordo che era qualcuno che chiedeva un contributo e quando non riceveva il contributo non c'era reazione, tranne nota di dissenso o qualche espressione colorita. Oggi siamo in una condizione che in molti casi è diversa, per cui faccio un esempio per tutti: nella città di Palermo, tornata a fare il sindaco nel 2012, ho percepito che questa forma di presenza sul territorio diventa una forma di controllo anche criminale, organizzato del territorio. La conseguenza qual è? Cioè c'è un vero, mi scusi Orlando, c'è un vero e proprio racket dei parcheggiatori abusivi. C'è un vero e proprio racket di parcheggiatori abusivi che viene sostanzialmente affidato a persone nulla tenenti, a persone che non hanno mai, quando arrivano alla polizia municipale a fare gli accertamenti, denaro, perché c'è qualcuno che passa periodicamente a raccogliere dalle casse di questi posteggiatori le risorse, e quindi una vera e propria forma di controllo illecito del territorio, che io a Palermo ho sperimentato avendo stabilito come amministrazione di pedonalizzare alcune zone che erano luoghi di posteggiatori abusivi. Ho avuto reazione violenta, reazione anche da parte dei commercianti che poi mi hanno confessato che erano costretti ad protestare contro la pedonalizzazione che, come noto, avrebbe portato, come ha portato, a vantaggi economici notevolissimi, perché il posseggiatore abusivo del luogo era persona evidentemente influente, appartenente ad un'organizzazione, una forma cioè di estorsione. Di estorsione vera e propria. Orlando, aggiungo una cosa. Aggiungo una cosa a quello che dice lei. Io ho trovato questi dati forniti nei giorni scorsi dal Giornale di Sicilia, ma immagino che siano stati forniti da voi, che tra il 2015 e il 2016, periodi ovviamente paragonabili dell'anno di questo parliamo, sono state elevate il 54% in più di sanzioni nei confronti dei parcheggiatori abusivi. E quindi e qua è la pena che è prevista al momento, no? C'è una pena amministrativa, e però ovviamente questa gente non paga, quindi la sanzione amministrativa non serve a niente. Esattamente a questo, nel 11 primo di mensilità asilo, in tutto l'anno la polizia municipale ha accertato 8 contravvenzioni per posteggio abusivo. Siamo alla media di 1000 l'anno, ma gli incassi non sono cambiati perché non paga nessuno. Una contravvenzione, due contravvenzioni o tre contravvenzioni non cambiano, nel senso che non producono un effetto di recidiva. Tanto non pagano, quindi. Ma bisognerebbe, ecco la proposta che faccio, bisognerebbe anche colpire il posteggiato abusivo, perché mi permette di ricordare che il posteggiatore abusivo esiste perché esiste il posteggiato abusivo. Cioè, se io voglio posteggiare la macchina in un luogo dove non posso posteggiare, divento io il mandante di un comportamento, il richiedente, quindi un complice. Pensi come sarebbe diverso se ci fosse una normativa che consente, per esempio, di togliere punti alla patente dell'automobilista che accetta il posteggiatore abusivo e quindi... Questo ce l'ha messo nella sua proposta, Orlando? Questa è esattamente la proposta che io ho avanzato, ho formulato, augurandomi che il Parlamento la possa esaminare, sapendo che se non si colpisce anche il comportamento dell'automobilista non sconfiggeremo mai il posteggiatore abusivo, perché un conto è: io automobilista posteggio regolarmente, si presenta qualcuno e mi domanda soldi, è una estorsione bella e buona. Se invece io posteggio in un luogo dove non posso posteggiare, è evidente che sono io complice del posteggiatore abusivo. Mandante, senta Orlando, l'ultima domanda che le voglio fare è una domanda sull'accoglienza che ha ricevuto questa sua proposta in questo senso. Io so che lei in questi giorni è in riunione all'ANCI a Roma, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Immagino che con i suoi colleghi di questa proposta abbia parlato. Loro come l'hanno presa? Ho trovato grande consenso e insieme lamentiamo la circostanza che questa possibilità è prevista un decreto sulla sicurezza urbana che per mesi con l'ANCI e col governo abbiamo discusso, che se venisse pubblicato questo provvedimento sulla sicurezza urbana potrebbe il sindaco adottare un'ordinanza la cui violazione diventa di per sé stesso fattispecie penale. La ringrazio, grazie Leo Luca Orlando, grazie. Sindaco di Palermo, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati dopo aver fatto un riassunto come sempre delle notizie, e poi nella seconda parte della trasmissione, se riusciremo a beccare Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, Alessandro Longoni dall'altra parte del vetro mi dice che finalmente ci ha risposto e quindi dovremmo esserci, parleremo con lui di questo, di questa petizione che sta raccogliendo sempre più firme per chiedere che la Regione Emilia-Romagna non approvi questa legge che impone ai bambini che si iscrivono all'asilo nido di essere vaccinati. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la Virginia Raggi, il sindaco di Roma, sarebbe pronta a dire no alle Olimpiadi del 2024. Tutto questo dopo un incontro che avrà questo pomeriggio il presidente del CONI Malagò, che però chiede la diretta streaming. Sulla legge elettorale si riapre lo scontro all'interno del Partito Democratico. I bersaniani sono contro la mozione del governo. Oggi ci sarà una discussione in aula su questi temi. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia, una nuova rivolta a Charlotte in North Carolina, ci sono 12 agenti feriti. Sarebbero in mano a delinquenti noti due italiani rapiti in Libia. Intanto dal paese parte per l'Italia la prima petroliera del 2014. Infine una notizia che riguarda l'attore e regista Francesco Nuti, una nuova caduta avvenuta nella sua abitazione in una frazione di Prato. È ricoverato all'ospedale Pratese Santo Stefano, le condizioni, è poi stato trasferito a Firenze, le condizioni sarebbero gravi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo nel nostro giro per l'Italia. Adesso andiamo a Bologna, andiamo più in generale in Emilia-Romagna per parlare di un tema del quale in realtà ci occupiamo spesso, che è quello dei vaccini. Che cosa è successo? È successo che è partita da Bologna una raccolta firme sul sito change.org per provare a bloccare la legge, della quale tra l'altro abbiamo già parlato, che l'Emilia-Romagna vuole varare per bloccare di fatto l'iscrizione all'asilo nido dei bambini che non vengono vaccinati. Io saluto e ringrazio Stefano Bonaccini, perché so che l'abbiamo strappato ad una serie di riunioni e a pochi minuti per noi. Presidente della Regione Emilia Romagna, buongiorno, benvenuto e grazie. Grazie a voi per l'opportunità. Benissimo. Senta, che cosa dice di questa petizione Bonaccini? Che ogni persona in un paese democratico è libera di mobilitarsi per applaudire o contestare o provare a modificare una decisione che le istituzioni prendano. Tenga conto, io sono parecchi anni che faccio l'amministratore pubblico, da un anno e mezzo il presidente dell'Emilia Romagna, ma ho fatto l'amministratore per diversi anni nel comune di Modena. Mi faccio dire che non mi era mai capitato, tranne quando appena diventato presidente ho fatto un taglio di 15 milioni di euro ai costi della politica, cioè su noi stessi, ma lì era abbastanza facile prendere gli applausi. Non mi era mai capitato di ricevere tanto consenso da ogni parte d'Italia da quando pochi mesi fa abbiamo detto che nella nuova legge 03 anni che andrà in approvazione in assemblea legislativa tra poche settimane avremmo introdotto per la prima volta l'obbligo vaccinale. Lei sa, sono 4 le vaccinazioni obbligatorie: difterite, tetano, poliomielite, epatite B, per l'iscrizione dei bambini e delle bambine all'asilo nido, che peraltro non è, come dire, un servizio obbligatorio ovviamente, ma è condizionato dalle opportunità in cui le varie regioni, i territori permettono questi servizi. Con orgoglio dico l'Emilia Romagna è la prima regione d'Italia per posti negli asili nido, non a caso siamo quelli con la più alta occupazione femminile, perché le due cose vanno parallele. Tenga conto che noi abbiamo fatto questa scelta per un motivo, perché per la prima volta negli ultimi 2 anni in Emilia Romagna la copertura vaccinale per le 4 vaccinazioni obbligatorie è scesa sotto la soglia del 95%, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica come a rischio. Perché? Perché quando in un ambiente definito saturo le persone sono tutte vaccinate o quasi, anche quei bambini, a proposito di diritto alla salute e a poter garantire servizi per la loro per l'infanzia, quei bambini magari che sono nati immunodepressi o hanno gravi patologie croniche o magari persino qualche tumore, non possono essere vaccinati anche se le loro famiglie lo volessero. Sì, tra l'altro ricordo agli ascoltatori Bonaccini che noi abbiamo raccontato una storia di questo tipo che veniva dalla Toscana, tra l'altro, se non ero di un bambino che non poteva andare a scuola perché la copertura vaccinale dei suoi compagni di classe era troppo bassa. Esattamente. E questo e quindi noi lo facciamo in primo luogo per permettere anche a quei bambini già così sfortunati dai primi giorni di vita di non dover rinunciare a un diritto che devono avere al pari degli altri e che se frequentando una classe in cui tutto il resto dei bambini sono vaccinati il loro problema si riduce al punto che non rischiano nulla di poter essere affetti da questi tipi di malattie. Tenga conto che è vero che nessuna vaccinazione è efficace al 100%, ma normalmente si aggira tra il 90 e il 99%. E nessun farmaco mai mostrato un'efficacia così elevata. Lei infatti sa che l'alta copertura vaccinale della popolazione serve da un lato a proteggere i bambini che abbiamo detto non lo possono fare, non possono vaccinarsi, ma tenga anche conto che ci sono malattie che nel mondo sono completamente scomparse, quasi da tutte le parti, tipo il vaiolo, o che grazie ai vaccini sono notevolmente ridotte, non interessa sono alcuni paesi. Noi lo raccontiamo spesso, Bonaccini, noi lo raccontiamo spesso perché a volte passa l'idea che sia solamente una malattia esantematica, ma di morbillo si muore e ci sono persone che sono morte anche solo 20 anni fa, qualcuno a Napoli se lo ricorderà. Lei pensi che l'anno scorso, e stiamo parlando del 2015, quindi non 50 anni fa o due secoli fa, mi pare in Spagna e in Belgio, vado a memoria ma non credo di sbagliarmi, sono morti due bambini per difterite, cosa che non si vedeva da decenni. Abbiamo casi di poliomielite anche dalle nostre parti, cosa che da tanti anni in queste dimensioni non avveniva. Allora noi abbiamo pensato che il diritto alla salute è un salute primario per tutte le persone, come il diritto all'istruzione, indipendentemente dalla condizione familiare in cui nascono e crescono. E crediamo di fare una cosa fatta bene, d'altra parte, siccome in ogni caso siamo poco sotto il 95%, vuol dire che la stragrande maggioranza, la quasi totalità delle famiglie vaccina i propri figli, se noi torneremo nel giro di breve tempo sopra quella soglia, quella norma obbligatoria potrà anche essere eliminata e peraltro abbiamo detto che ci sarà un anno di tempo per dare una mano a tutti per potersi mettere in regola. Noi siamo convinti di stare dalla parte giusta e tenga conto, lo faccio dire con chiarezza, la comunità scientifica e quella medica sono tutte dalla nostra parte. E lo sappiamo benissimo. Grazie Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, per il tempo che ci ha concesso. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.